Domenica scorsa mi ero permesso di scherzare un pochino sulle facce dei candidati alle elezioni amministrative, come appaiono sui manifesti con cui gli stessi candidati sono convinti di farsi un'utile propaganda. Non avevo ancora visto le facce della settimana successiva. Non le avevo viste e per fortuna non le vedrò più, perché non so se l'avete notato, quest'anno il darwinismo elettorale è particolarmente accentuato, la lotta per la sopravvivenza è durissima, uno non fa in tempo a coprire con la sua faccia ogni superficie possibile che subito un'altra ondata di manifesti oblitera i suoi e consegna alle sue fattezze un pietoso oblio. Onde la necessità per i candidati più accorti di rimandare il momento dell'affissione a quando le energie della concorrenza si saranno presumibilmente esaurite. Sarà interessante vedere chi vincerà in questa specie di surplus propagandistico. Per ora nella mente dell'elettore distratto restano solo dei frammenti di immagini e lacerti di slogan non sempre lusinghieri. Per esempio quell'aspirante consigliere che, avendo scelto come slogan la frase «il coraggio di confrontarsi tutti i giorni», ha avuto la bella pensata di contrapporre sullo stesso manifesto due immagini speculari di sé, un profilo destro e un profilo sinistro a confronto uno dell'altro, probabilmente crederà di aver avuto una pensata straordinaria, ma il cittadino normale non può fare a meno di pensare che con una faccia così per confrontarsi con se stessi ci vuole davvero un bel coraggio. Ma la vera novità della settimana è la discesa in campo dei bambini, poveretti. Un certo numero di candidati deve essersi reso conto che l'esibizione della propria faccia, quali che siano i suoi meriti, non è sufficiente a convogliare voti a valanga e ha deciso di ricorrere agli argomenti forti. Si è fatto fotografare insieme a un bambino o a una bambina presumibilmente autoprodotto. È una tentazione cui ha ceduto persino un candidato importante, uno di quelli che qualche possibilità di andare al ballottaggio ce l'ha e che deve aver pensato che sistemare in primo piano davanti a se stesso una bellissima bambina coi capelli d'oro gli avrebbe fatto crescere. Ma il record in materia, naturalmente, spetta a quell'altro candidato che di bambini attorno a sé ne ha radunati 6, tutti biondi, chiedendo un voto in nome della necessità di dar loro una Milano migliore, che è quello che normalmente si dice non badare a spese. Insomma. Vedete, io veramente, visionando quel manifesto un po' distrattamente, avevo commesso un equivoco. Avevo capito che l'invito fosse quello di dare a quei bambini un futuro migliore, e nel presupposto che fossero tutti figli del candidato, o che almeno per tali si volesse far passare, anche se a me sembrava improbabile perché avevano tutti più o meno la stessa età, però non mi intendo molto di bambini, potrei sbagliarmi, mi ero stupito per l'improntitudine di uno che volendo farsi eleggere una carica pubblica dichiarava apertis verbis la volontà di dare ai suoi figli un futuro migliore. Non c'è dubbio che il futuro di un bambino o di 6 bambini il cui papà siede a Palazzo Marino possa essere migliore di quello di tanti altri, soprattutto se il papà sa darsi un po' da fare, ma era solo un equivoco malizioso di cui non posso fare a meno di vergognarmi. Anche se, a pensarci bene, l'invito a dare ai pargoli una Milano migliore ha qualche valore soltanto se i bambini concretamente esibiti sono presi a simbolo, sono considerati rappresentanti di tutti i loro coetanei, e allora forse di improntitudine si può tornare a parlare. Non si capisce che cosa autorizzi quel tale a erigere i suoi 6 mostriciattoli a rappresentanti di tutti i bambini di Milano, compresi quelli di chi non ha la minima intenzione di votare per lui. Ma queste in ultima analisi sono finezze argomentative che nella campagna elettorale come quella che stiamo vivendo non hanno un gran posto. Il problema poi resta sempre quello della settimana scorsa, cosa cavolo ha a che fare con le eventuali capacità amministrative del soggetto la presenza al suo fianco di uno o più bambini, per quanto graziosissimi. La paternità sì, è considerata generalmente un valore, sia pure attingibile piuttosto a buon mercato, e tutti o quasi preferiscono per sindaco un buon papà piuttosto che un noto pedofilo, ma in definitiva le immagini sono soltanto immagini. Non dicono niente del rapporto che il Signore raffigurato intrattiene con le proprie creature. Un minimo d'esperienza su come vanno le cose di questa terra, anzi, ci può far pensare che chi nutre alte ambizioni professionali e sociali, chi ambisce per esempio a diventare sindaco di una grande città, raramente è un buon padre, perché tutto preso dal turbine dei suoi progetti può correre il rischio di trascurare i rampolli e li lascia crescere in assenza di una figura paterna con, pensate voi, quali inguaribili danni alla loro tenera psiche. e già l'idea stessa di servirsi dell'immagine dei propri stessi figli per farsi propaganda, di mettere in piazza i propri rapporti privati e familiari pur da agguantare una manciata di voti dagli imbecilli disposti a farsi commuovere da un faccino imbronciato, non fa supporre un'anima così disinteressata, così pura. È un'immagine piuttosto sgradevole, in fondo, di fronte alla quale l'innocuo narcisismo del candidato disposto a confrontarsi tutti i giorni con se stesso assurge al rango di dimostrazione principe di acume politico. Che pensare che ci aspettano ancora 2 settimane, eh?